Vendo tutto di Matteo Caccia. Einstein sosteneva di poter vivere con solo quattro oggetti: un violino, una penna, un orologio e una giacca di pelle. Tutte cose regalategli dalla moglie. Io violino, penna e orologio li ho già venduti e vado avanti. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo il frigorifero. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, vendo tutto, ringrazio Sergio di Milano che al 349-238-6666 mi ha già scritto: Matteo, contieniti, non spararne troppe, Sergio, farò il possibile. Per oggi la posta in gioco è molto alta, è un frigorifero, guardate, provate a pensare non a un frigorifero, pensate al frigorifero, quello che avete in mente, è esattamente il mio, è esattamente quello che vendo oggi. Potete vederlo sul sito radio24.it oppure sulla pagina Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Dunque, settimana scorsa ho accompagnato mia sorella a comprare un mobile. Mia sorella sta arredando la casa nuova, si sposa a luglio col suo fidanzato storico e quindi stanno comprando gli oggetti. E settimana scorsa ero dalle sue parti e l'ho accompagnato a comprare questo armadio. Dunque, già non è molto facile per uno che sta vendendo tutto aiutare una che sta comprando tutto. Però lei ha scelto sto armadio, che era una roba obiettivamente, diciamo, difficile da gestire. Era una roba tipo 6 ante, con le ante a specchio. Gli ho detto, ma sei proprio sicura di voler... Anche perché poi costava chiaramente uno sproposito. Le ho detto, cosa ne vuoi sapere te che stai vendendo tutto? Giustamente, aveva ragione pure lei. Sabato scorso eravamo a pranzo insieme, sono arrivati i signori del mobilificio a consegnarle questo armadio e appena gliel'hanno montato, io nei suoi occhi ho visto l'espressione. Non l'ha detto con parole chiare, non l'ha verbalizzata, ma l'espressione era... ho fatto la vaccata. 800240024 oppure 349-238-6666. È capitato a tutti, ragazzi. È capitato a tutti. Non vi preoccupate, lo so. Avete fatto un acquisto, avete comprato... Vale per qualsiasi oggetto, vale per le macchine, vale per l'attrezzatura sportiva, vale soprattutto per i mobili. Cioè, tu vedi una roba, ti piace così tanto che dici, guarda, me ne frega niente, spendo anche... 200 euro quando magari una roba alternativa ne costa 250, spendo questi 3000 euro anche se la cosa che ne costa di meno ne costa 1000, poi arrivate a casa con quell'oggetto che magari avete preso contro il volere di tutta la famiglia e pensate, sì, ho fatto la vaccata. Questo è quello che è successo a mia sorella ed è quello che è successo anche a me il giorno in cui ho comprato questo frigorifero. Fortunatamente non me ne sono pentito, ma nonostante tutto oggi lo vendo. 800240024 per confessarmi: sì, è vero, ho comprato quella roba e all'inizio ho proprio pensato, ho fatto la vaccata. 800240024. Torniamo al mio frigorifero. Se volete andare a vederlo, ve l'ho detto, è sul sito o sulla pagina Facebook per sentire la sua storia. Eccoci qua. Il frigorifero. Frigorifero SMEG modello monoporta anni 50, color panna, porta bombata, cerniere a destra. Dimensioni: altezza 1,51 m, larghezza 60 cm, profondità 54 cm. Frigorifero ventilato, volume utile 222 litri, termostato regolabile, sbrinamento automatico. Bello di una bellezza quasi sfacciata. Perfetto per gli amanti del freddo e degli anni 50. Valore commerciale 1100 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono oggetti che raccontano di noi più di quanto immaginiamo. Il frigorifero è uno di questi. Quando ero solo e vivevo da solo, facevo la spesa in maniera disordinata. Compravo le cose a caso e le prendevo dagli scaffali più in vista del supermercato. Non facevo la lista prima di uscire, quindi mi ritrovavo sempre a comprare le stesse cose. Formaggio, salame, un po' di pasta e della Coca-Cola. Dopo 3 anni di questo regime alimentare, il mio fegato era grosso come un'anguria. E il mio frigorifero invece era triste come il 2 di novembre. Che sia al ristorante o da amici, a me piace mangiare fuori, perché di solito gli altri cucinano sempre meglio di me. Però un giorno di qualche anno fa ho realizzato che era meglio sia per il mio stomaco sia per il mio conto in banca cominciare a mangiare un po' di più in casa. Ricordo molto bene quel momento. Era novembre, era un giorno buio. Io sono rientrato in casa con le migliori intenzioni, sono andato in cucina e ho aperto il frigorifero. La prima sensazione che ho avuto è stata quella di trovarmi davanti a un dente cariato, cupo, maleodorante e vuoto. Nelle vaschette in basso c'erano delle cipolle che si erano trasformate in piante rampicanti. C'era un vasetto di senape alla francese, dei dadi per il brodo e un pezzo di parmigiano che sembrava carbone. Qui risparmio il racconto dell'odore che usciva da quella specie di caverna. D'impulso ho chiuso il frigorifero e sono andato a prendermi un kebab completo dai ragazzi turchi sotto casa. Poi sono risalito e anche se speravo che durante la mia assenza il frigorifero fosse evaporato, lui era ancora lì, a testimoniare la mia inettitudine come cuoco e la mia trascuratezza come uomo. Ho deciso quindi di affrontare la situazione, perché alla fine guardare quel frigorifero era un po' come guardarmi allo specchio. Mi diceva che ero solo e trasandato, che cercavo di sembrare indipendente, e invece ero semplicemente vuoto e indigesto. Perché starsene da soli è bello, però starsene in due è meglio. E alla fine, quando sei solo, cerchi sempre qualcuno con cui stare. Ecco perché dovevo fare qualcosa, per me e quel frigorifero. E quello che feci fu trovarmi una fidanzata. Quando siamo andati a vivere insieme, io e Giulia abbiamo fatto svariati viaggi in quel grande supermercato dei mobili svedese, quello che ormai si trova alle porte di ogni città italiana. Molte cose le abbiamo comprate lì, però uno degli elementi su cui non ero intenzionato a cedere era proprio il frigorifero. Quello vecchio l'avevo regalato ad un amico, stava andando a vivere da solo, ed era stato felicissimo di liberarmene. Avevo sfogliato diversi cataloghi e mi ero innamorato di questo modello, sembrava uscito dagli anni 50. Era color pastello e bombato, con la maniglia in acciaio cromato e il nome della marca scritto in alto a 4 lettere. Sulla scelta del mio frigorifero ero stato rigidissimo. Non avrei mai più avuto un frigo triste, solitario e finale. Non avrei permesso a nessuno che fosse entrato in casa mia di pensare che ero una persona poco curata. E quindi scesi a compromessi su tutto, tranne che il frigorifero. Il prezzo obiettivamente era alto e Giulia non era d'accordo. Però chiusi l'ultima discussione al proposito con una frase che mia madre ripete sempre e che è efficacissima, anche se in realtà non l'ho mai compresa fino in fondo. Guarda, chi più spende, meno spende. Il giorno in cui andai a comprarlo era un martedì. Presi la macchina, raggiunsi l'unico rivenditore Smeg di Milano e quando lo vidi sapevo che era lui, color crema, con un'aria garbata ma con una stazza solida e monolitica. Firmai un assegno che per un frigorifero era assolutamente spropositato. Controllai che lo caricassero con cura sul furgone e li portai a casa mia. I due ragazzi peruviani scaricarono il frigo, lo imbragarono con delle corde di canapa e lo portarono su. Quando Giulia rientrò, io ero pronto a farle la sorpresa. Appena lo vide però, sulla sua faccia non apparve proprio l'espressione che mi aspettavo. Fece una smorfia di stupore e disse: «Ma scusami, ma non ha il freezer?» Io dissi di sì, che il freezer ce l'aveva, e aprì per mostrare lo scomparto interno, grande quanto il cassettino di un cruscotto. Lei disse che quello non era un freezer, che non ci si poteva congelare manco un cucciolone lì dentro. Mentre piano piano la mia certezza sulla meraviglia del frigorifero appena comprato iniziava a incrinarsi, provai a dirle: «Ma è meglio, no? Così è più compatto». E lei, mentre se ne andava in bagno, mi urlò: «Matteo, è un frigorifero, non è un SUV». Passai la serata attonito, davanti al mio frigorifero, pensando alla cifra che avevo speso, con una frase che mi girava in testa: «Ho fatto la vaccata». Non era la prima volta che mi trovavo in quella situazione in cui, dopo aver esultato tanto per il mio acquisto, dovevo ammettere che c'era qualcosa che non andava, che avevo fatto la vaccata. Eppure niente, nonostante il suo design anni 50 e la sua forma compatta, a malincuore il mio frigorifero è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 1.100 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi quegli acquisti sbagliati che avete fatto, 80024-0024. 3332-3332-688-6666. Ciao Matteo, sono single ed ho comprato una station wagon. Me ne sono accorto subito della cavolata e per lo più dopo un anno sono ancora single. Marco, ciao Matteo, io comprai un magnifico strumento musicale, un basso 6 corde senza tasti, ma appena tornato a casa mi resi conto di non essere in grado di suonarlo. Che pacco, nessuno se lo voleva comprare. Ciao da Puccio e Romano de Bergamo. Ciao Puccio, 3392-3386-666 per i messaggi, 800240024 per raccontarmi quell'acquisto talmente sbagliato che appena l'avete visto avete pensato: ok, ho fatto la vaccata. Alessandro, dalla provincia di Massa, pronto? Sì, ciao Matteo, sono Alessandro. Ciao Alessandro, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Qual è complimenti stata... per la tua trasmissione. Guarda, anche tu non sei niente male, Alessandro. Dimmi, dimmi qual è stata quella vaccata che hai preso. La faccio brevissimo, anche il motivo per cui ti ho chiamato, perché nel momento in cui ho acceso l'audio stavo facendo l'atto finale. Cioè, io sabato, non dico dove, comunque in un discount ho comprato una pesa persone, diciamola così. Tutto bene, sono arrivato a casa, l'ho posata, questa mattina diciamo l'ora di pranzo l'ho sballata, tutto a posto, appena messa giù è partito la segnaletica, sono montato sopra, 100 kg precisi, tutto bene, solo che io ne peso 70, ho buttato via lo scontrino e tutto, e adesso mentre la stavo buttando io ho acceso la radio e ti ho ascoltato e ho detto ora lo chiamo. Quindi perfetto, esatto, cioè in realtà tu avevi bisogno di quella bilancia, però è una bilancia sballata, mi pare di capire. Sì, e tra l'altro siccome ho l'abitudine di buttare via gli scontrini non potevo neanche cambiarla. Benissimo, niente, è andata via. Grande Ale, mi sembra proprio, è sembrata un'ottima mossa, ma scusami, perché hai comprato una pesa persone? Ma perché era anche carina esteticamente. Ho detto, ma hai bisogno? Sei a dieta? No, fai seguire il regime alimentare? Niente, ok. Ma che sai quelle cose che dici, la devo avere in bagno. Certo, una sorta di acquisto impulsivo. Di solito gli acquisti impulsivi sono le ciccole caramelle, per te invece una pesa persona. Esatto, costava poco, ma valeva probabilmente. Però è sballata poco. Di 30 kg. Grazie Alessandro, va buona bene, giornata. Ciao, ciao Roberto, dalla provincia di Milano. Pronto? Sì, ciao Matteo. Ciao Roberto. Volevo dirti la vaccata che ho fatto. Vai. Con l'acquisto dell'auto, quando era appena uscita la Alfa Brera, impazzivo per il modello, per il tipo di vettura. L'ho acquistata, sì, omologata per 4 posti, poi effettivamente era per 2. Ah, ok. Era... che i miei figli devono starci dentro rannicchiati perché... Cosa ne hai fatto? Cosa ne hai fatto? L'ho dovuta vendere perché era guerra in famiglia. Senti, scusami, non per fare i fatti tuoi, quanto viene questa vaccata del genere? Quanto hai speso? Quanto ci hai smenato? 49.000 euro, full optional. Scusami, hai detto? 49.000 euro. 49.000 euro, benissimo. Quanto ne hai ricavato quando l'hai rivenduta? Scusami. Ah, 23, neanche la metà. Benissimo, guarda, al momento sei proprio in testa alla classifica. Roberto, grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, andiamo Sandra, provincia di Venezia. Buongiorno. Ciao Sandra, buongiorno. Grazie di avermi ricevuto con la telefonata, perché racconto che io ho comprato un letto ancora 18 anni fa e sarò battuto. Una grande porcheria. Addirittura il mio compagno non riusciva neppure a dormire e abbiamo messo delle prese a terra perché diceva che proprio gli rovinava il ciclo del sonno. E questa è stata una delle mie prime e poi ci sono susseguite tante altre cavolate. Cioè tanti acquisti, ok, ma scusami, però non ho capito per quale motivo è un problema il letto in ferro battuto. Cos'è che non va di questo letto? È proprio brutto. Ah, è proprio brutto. Benissimo. Brutto. Io lo volevo imbottito, penso un po', poi mia madre, no, compro il ferro battuto che è un investimento. Madonna, questa storia degli investimenti, ha fatto delle porcate, guarda. Per carità. Questa degli investimenti hai ragione, guarda, sono d'accordissimo con te, è proprio una vaccata. Se quando compri una roba devi pensare a quello che ti porterà, sbagli di sicuro, pensa a quello che ti piace e basta. Sandra, grazie mille. Grazie. Ti aggiungo anche il va bene, magari apriti un account eBay anche tu. Ciao Sandra, grazie. Grazie, ciao. Carmine da Milano, pronto? Ciao. Ehi, come tutto stai? Tutto bene? Ma io bene, sei bello su oggi Carmine. Sì, io sempre bello su. Cosa fai nella vita Carmine per essere sempre io così? Io faccio il portalettere, ma per le poste? Sì. Quindi sei in giro con questa pioggia e con sto vento in bicicletta? No. Buon postino quando piove non esce mai, ricordatelo sempre, sta a fare il suo lavoro e si bagna poco. Ma tu giri in bicicletta o in motorino? Come girate? No, io ho il 150, il mio bel motorino, veloce. E che zona fai di Milano, Carmine? No, io faccio una zona, sono in provincia di Milano, a Legnano. Sì, ma scusami, poi torniamo all'argomento di oggi, però, sì. Ma quante case ti fermi in una giornata? Cioè, quanta posta consegni, quante case fai? Il recapito normalmente sono attorno ai 4.500 a postino, più o meno. Al giorno? Sì, al giorno. E quanto ci metti? No, nelle ore, nelle 6 ore giornaliere ce la fai. Cioè, poi non è sempre così, non è all'inizio ci metti più tempo, poi dopo qualche anno che hai preso pratica non ci metti da poi quanto più lo fai tanto. Da quanto lo fai, Carmine? 8 anni. E quanto ti manca quindi su questi semplici 25? Come? Sì, quindi ti mancano questi 25 anni a finire. Anche di più. Ma si può fare carriera? Si può fare carriera facendo il postino? Si può fare carriera facendo il portalettere? Ma è difficile. Portapacchi? È difficile. No. Praticamente si va allo sportello, ma è difficile. Okay. Oppure al massimo come caposquadra, ma non conviene neanche. Benissimo, Carmine. Dopo essermi fatto un po' di fatti tuoi, veniamo a qual è quell'oggetto che ti sei comprato e hai detto ho fatto veramente una vaccata. Allora, sono... degli elicotteri telecomandati, è presente quelli che vendono sempre scontatissimi? E come no, certo. Bellissimi a vedersi, leggerissimi, che poi quando li monti davanti a tuo figlio o a tua figlia non funzionano e fai pure una figura di MM. Ah, ok. E poi ti piange per tutta la serata e ne vuole un altro e tu sai benissimo che l'altro non funzionerà, nemmeno quell'altro. E quanto l'hai pagato il tutto, Carmine? Ma non tantissimo, costano relativamente poco, un 13-14 euro li trovi se sono scontati. Però se sono rotti tanto vale. Sì. anche un euro, ma se non servono. Carmine, grazie mille, buona giornata. Piacere, anche ciao. Per me, ciao, buona giornata. Andiamo da Monza, da Roberto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, Roberto. Io sono sempre da acquisti impulsivi, perché viva gli acquisti impulsivi. Bravo, perché poi ho letto da qualche parte che in realtà quando decidiamo che cosa comprare lo decidiamo nei primi 3 secondi, il resto è solo un modo per giustificarcelo. Credo che ci sia una differenza sostanziale tra l'acquisto fatto dagli uomini e dalle donne. Gli uomini escono per comprare, le donne escono per vedere e successivamente decidono di comprare. Sì, quindi credo che tu abbia normalmente ragione. Una donna fa un acquisto mirato, l'uomo invece qualcosa deve portare a casa. Fa la vaccata, come nel tuo caso, cioè? Ma nel mio caso io ho comprato una macchina che sognavo da tanto tempo. Che è, possiamo dirlo. Però non ci stava in garage, quindi... Ho comprato un posto auto anche. Ma scusami, che macchina è, Roberto? Diciamoci tutto. Ho comprato un Dodge che è lungo 5,85 m. E il cash doppio, bellissimo, comprato nella casa nuova, era 5,30 m. Ma e non avevi preso banalmente le misure, no? Questo era certo. Immagino la faccia di tua moglie. Grazie, Roberto, buona giornata. Grazie a te, buon pomeriggio. L'ultima telefonata, Christian da Trieste. Pronto? Ciao. Ciao Christian. Io ho comprato un Ritmo 105 Abarth 15 anni fa e l'ho pagata 3,8 milioni. Poi l'ho portata dal mio meccanico, il mio meccanico si è chinato, ha guardato il telaio e mi ha detto vendila, perché era praticamente il telaio rotto. Scusami, ma 15 anni fa una Ritmo era già una macchina quasi da collezione? O no? Sì, aveva già i suoi anni. Ma tu cosa volevi fartene? Sembrava nuova, me l'hanno spacciata per nuova e tutto. Ho preso un bidone, in poche parole. Ma tu cosa volevi fartene? Usarla tutti i giorni oppure semplicemente averla lì e farci, che so io, No, gara? Usarla. Ah, usarla proprio. Perfetto. Una Ritmo, ricordami il modello? Ritmo 105 Abarth. 105 Abarth, me lo segno, così me ne sto lontano. Grazie mille, Christian, buona giornata. Grazie, ciao. Ultimo messaggio di oggi, Manuel da Vicenza mi dice: ho comprato un programma completo per CD foto, valore 400 euro, poi mi sono accorto che già era nel PC. Che vaccata, e c'hai tutta la tua ragione, Manuel. Ringrazio anche oggi Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Il frigorifero lo trovate sul sito radio24.it oppure sul profilo Facebook del programma, che è sempre Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo invece il mio corso di tennis, in realtà è l'ultima lezione, ma è il mio corso di tennis. Se proprio non volete liberarvi del vostro frigorifero, invece almeno dategli una lavata, che un frigo pulito è meglio di un frigo sporco.